Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Alcuni dei più significativi progressi in medicina negli ultimi anni sono intimamente legati agli avanzamenti nel campo delle tecnologie cosiddette di imaging. La vecchia radiografia non è sparita, ma sempre più spesso viene sostituita da tecnologie che consentono di ottenere immagini dell'interno del corpo molto più precise e raffinate. Quasi tutte queste tecnologie, tuttavia, comportano l'uso di radiazioni ionizzanti e su questi, un po' come nel caso dei vaccini, c'è molta confusione nell'opinione pubblica riguardo al rapporto tra rischi e benefici. Una situazione che potrebbe migliorare con l'introduzione di un sistema di etichettatura, e sarà uno degli argomenti di cui parleremo questa sera con Sabina Strocchi, fisico medico dell'ospedale del Circolo di Varese e consigliere dell'AIFM, l'Associazione Italiana di Fisica Medica. Io e Sabina ci conosciamo da una vita, ma letteralmente da una vita, quindi ciao Sabina, benvenuta. Ciao, ciao Maurizio. Allora Sabina, apparecchiature radiologiche sempre più diffuse, se ci puoi fare qualche esempio di quelle che magari stanno arrivando, si stanno diffondendo in questi anni e anche quali sono stati i progressi più importanti alla base di questa diffusione? Beh, diciamo appunto, apparecchi radiologici sono sempre stati diffusi nei nostri ospedali, però adesso si usano massicciamente anche in campi dove magari prima si usava meno. Per esempio, in tutto l'imaging che serve per guidare la chirurgia mini-invasiva, cioè per esempio il cardiologo ti vuol mettere uno stent e anziché dover fare un intervento chirurgico classico, invece di aprirti come un pollo, esatto, diciamo così, può intervenire senza aprire il paziente, ma vedendo nell'interno tramite appunto radiazioni raggi X che permettono di ricostruire l'immagine. Capita che si diffondano anche delle TAC dentali e questi sono assolutamente piuttosto recenti come apparecchi. Ecco, quali sono stati i miglioramenti di fondo di queste tecnologie? Ma come in tutta la tecnologia oserei dire, il campo digitale ha dato una grossa mano, quindi i rivelatori digitali si sono sostituiti a quelli analogici e stanno evolvendo sempre più con una maggior risoluzione spaziale, migliori prestazioni eccetera. Sempre dal digitale l'elaborazione dell'immagine, mentre anni fa bisognava usare dei metodi semplificati, sennò i tempi di elaborazione diventavano troppo lunghi, oggi anche dei metodi molto accurati si possono far girare. E questo è il motivo per cui per esempio sta entrando la TAC negli studi dentistici, no? Perché prima serviva una capacità di elaborazione che non era assolutamente alla portata di uno studio dentistico. No, e quindi di conseguenza anche i prezzi di questi apparecchi si abbassano e si possono anche comprare in piccoli studi e non solo nei grandi ospedali. Si sta lavorando anche sulla radiazione stessa in qualche misura, mi dicevi? Sì, esattamente, nel senso che i raggi X che vengono formati all'interno di un tubo radiogeno vengono formati tramite il bombardamento di elettroni su materiali che non sono sempre gli stessi. Ultimamente abbiamo avuto, diciamo, una moltiplicarsi di materiali utilizzati come target che permettono di creare degli spettri di raggi X più diversi e più adatti alle varie applicazioni, diciamo così. Ok, più mirati, diciamo, in modo che l'assorbimento di radiazione sia minore e si abbia il meglio possibile dal punto di vista del risultato pratico, esatto, sostanzialmente. Sì, sì. Ecco, a fronte di tutto ciò, invece la percezione del rischio e dei benefici, qua siamo messi abbastanza male, mi sembra di poter dire, no? Ma diciamo che l'opinione pubblica non è informata, secondo me, veramente su quali siano i rischi e i benefici delle radiazioni ionizzanti di cui stiamo parlando adesso. Nel senso che è chiaro che se al posto di un intervento chirurgico puoi fare un intervento invasivo con cui guida radioscopica, il vantaggio è che ti salva la vita e con rischi molto più bassi, anche se magari a fronte di un assorbimento di radiazioni molto più elevato di quello di una radiografia, normale. E invece diciamo che la percezione è abbastanza confusa e su questo i messaggi che arrivano dal mondo non aiutano. Mi ha raccontato una cosa che mi ha molto sorpreso. Ma sì, c'è stato, mi sembra all'inizio dell'anno, no? Questo film, Nessuno si salva da solo, dove tutto un episodio del film è costruito sull'angoscia di una coppia in cui la donna, diciamo, scopre di essere incinta dopo aver fatto delle radiografie ai denti, in buona sostanza, e alla fine, con grande travaglio, decide di abortire. Ma questa è una cosa che non è motivata. È una fesseria, possiamo dirlo che questa in linea di massima sarebbe una fesseria? Diciamo che se uno ha dei dubbi è giusto che anziché magari andare su internet e ravanare a caso, si rivolga magari a qualcuno di esperto, che però può non essere il dentista in questo caso. A proposito, diciamolo, se avete dubbi su questioni di esposizione alle radiazioni per ragioni sanitarie, www.fisicamedica.org. Se i nostri ascoltatori fanno una domanda, voi rispondete, giusto? Sì, noi abbiamo, diciamo, dei gruppi di esperti precostituiti, perfetto, ciascuno specialista in un campo. Un po' di chiarezza in più dovrebbe arrivare dalla direttiva europea 59-2013. Ci spieghi di cosa si tratta? Beh, questa è una direttiva che che ridisegna completamente le normative in materia di radioprotezione in Europa e darà l'opportunità di dare un'informazione più puntuale al paziente che viene sottoposto a radiazioni ionizzanti. Quindi ci sarà un'etichettatura, si sta discutendo di come dare questa informazione, non ci potrebbero essere delle stellette? Sì, perché diciamo i metodi possono essere tanti, le stellette, come tu dici, un numero che sia proprio una grandezza fisica, che però magari il paziente capisce, non capisce poco, sì. Oppure magari un numero di giorni di radiazioni di fondo naturale, perché tutti in realtà siamo già sottoposti a radiazioni. Perfetto, cioè io faccio quell'esame e scopro che è come l'equivalente di 7 giorni di radiazioni della mia vita normale. Esatto, oppure di 7 anni, faccio per dire. Certo. Perfetto, grazie Sabina Strocchi. Ok, grazie a te, ciao. È tutto, a domani.